Mike Hotel Zulu 19, qualcuno ascolta, passo. Torna. Premessi. Prova ora. Adesso sì, aspetta. Bene, mi senti? Un po' di alternata, cioè. Ah, adesso. Prova. Prova, prova, non è per radio, ora, ora, ora. Alternata, cioè. Come mai? Non ci vuole la massa. È attaccato il microfono, tutto attaccato? Allora, i collegamenti sono fatti. Se io ti sposto il filo non fa, capito? E come faccio questa alternata? Ma forte? Sì. Mandami una registrazione, va, pronto, sì, voglio sentire io. Aspetta che te la mando. Ecco qua, prova tu. Metto con sulla colonnina. Vai. Ma per caso perché c'è con la bella modulazione? E beh, Antu. Prova? Prova un po'. Prova lui che ho fatto il volume. Disciuga, più forte di prima. Allora, non sarà parecchio. Oh, ma t'hanno regalato. Ah? Insomma. Stanno più dudu, torna vivo. Cosa potrebbe essere secondo te? Tanto non ti capisco, ci trovo più che si sente. Ho detto cosa potrebbe essere, il microfono o l'apparato? Ah, boh. L'ultimo volantino non è che così male. Prima si segue qualche alternanza, se può essere anche l'apparato, che non ha una buona massa dentro. Adesso non lo sta facendo. No. No, ma cosa c'è? Ventole accese c'hai. Cosa c'ho? Ventole accese. No, non c'ho niente acceso. Il baracchino ce l'ha acceso, adesso guarda un po'. Guarda, non mi sembra, rubando sotto fondo, mi sembra. Allora, facciamo così, dai, adesso taglio i fili, che li faccio tutti nuovi con lo stagno nuovo, aspetta. Dammi un attimino. Scappa, non è così male. Dammi qualche minuto, aspetta. Sì, io tanto, preoccupato. Hello, hello, hello, 111. Hello, la ternata. Aspetta, vai. Poco. Sì, vabbè, se vuoi venire a prendertelo, sono vieni domani. Sono ubbidente la macchina, prego. Andiamo a casa, vieni. Cosa ne dici tu? Sì. Antu, se mi fa questa cortesia, passano da Poddi che mi compri due pizzette. Tutti due soldi. Ok. Mi sa che te ne compriamo pure noi. Ma quella la pizza? Gatti, la pizza! La pizza, ha detto. Sì, ok. Hola. Con l'attenzione al canale 10. Hola. Che avanti? Qua ci abbiamo solo Dash. Con l'attenzione 10. Ehi, fa vedere la parola. Chi è? Io sono Gianni Lupino, tu chi sei? Indovinello. Ti farò con il cestello. E chi sono Gianni Gay secondo te? Daniele, sì. Hai visto? No, ho sentito. E tanto già, capoccio. Emilia, cosa ti hai messo? L'eco. Questo è sempre quello che c'ho. Ce l'ho in macchina. Ah, sto scendo bene, bello lo sparato. Che sparato? Il... ma adesso te lo dico, aspetta, che adesso mi sfugge il nome. Il Superstar 3000, il 3009 modificato. Io sono a Sassari, sono a Predanieda. Ah, abiti lì adesso? No, abita a Itiri, già, abita a Predanieda. Sì, a Predanieda ci sono le case mie. No, sono qua di passaggio, dai, stiamo facendo commissioni. E niente. Calma, Dani. Arrivi benissimo. Stai proprio arrivando una bomba. Ma l'hai fatto fare tu questo apparato? No, l'ho preso già così, già. L'ho preso già modificato. Quindi come fate la radio, sto uscendo, non c'ho niente qua, capito? Quante parti c'ha la radio? Ma forse sto uscendo con 8-10 watt, una cosa del genere. Ti fa vedere il segnale, proprio. Guarda un po', 1, 2, 3, la peppina fa il caffè. E c'è 9.25 qua. Ehi, sono qua da... perché si prende niente, dai, dietro tavola. Sì, va bene, dai, e quella zona lì per me è favorevole, va molto bene. Tu come mi ascolti? Forte e chiaro qua già, sei a bomboletto anche tu. Cavaga, ma sono pure in parte dell'apparato, sto uscendo col Galaxy Saturn. Già va bene. K di Rosmetro. Cazzo, mi piace questa radio, Dani. Mi sa che ci meglio con questo che con l'altro. Con il K. Su questa radio è bella chiara e forte, bella potente. Ehi, già, lo dico a tutti. Infatti l'ho messo in macchina per quel motivo, è già... c'ho anche l'87 modificato. Però questa è quella che c'ha la radio più forte di tutti. E poi Superstar è già buono così senza modificare. Figurati modificato, già esce bene di radio Superstar. E si conferma. Tu non hai sentito? Sì, non avevi sentito con le altre radio che ho a casa. Quale non è? Mi avevi sentito sia col 140 che col 440. Sì. Sì che ti ho sentito, Dani. E col che antenna stai uscendo, Dani? Qua c'ho la PLC 1000. Certo, però roba è alta. Io ne ho trovato una di antenna che è è un'antenna polacca, ma... è corta, è più corta di quelle, è 1,60 m, però è un bel potente, da tutte le parti mi sento. E K, questa quanto è? Questa è 1,75 m mi sembra, PLC 1000. È 1,80 m, 78 m. Ehi, no, non ci arriva a 2 metri comunque. No, 1,80 m mi pare che sia. 1,80 m è come la Turbo 2001. Comunque io ho la Turbo 2001 in vendita, se interessa qualcuno fammi sapere. Nuova, mai usata. L'ho comprata e poi non l'ho piazzata. L'ho vista nel gruppo già. La sto dando, se interessa qualcuno. Tanto ce l'ho ferma sul mobile, cazzo, per marcire. Caraba, no, questa sono la base magnetica e niente, metrica e ballacca e via. Vedete che non andrà nemmeno la base magnetica, io non so se l'ho avuto con la base magnetica, stavo per fare il buco con la macchina nuova, meno male che non l'ho fatto, che non mi è mai sciuto. Meno male. Vabbè, con Alghero già ci sentiamo, lavoro Alghero, quindi quando sono fermo qualche chiacchierata già riesco a farla. Sì, anche io ieri pure sono ero con Alghero, sul 15. Cava. E niente. Io c'è cioè, solo così perché intanto stiamo aspettando Chiapra qua e no, se ci andiamo fuori, ci rilassiamo 5 minuti. Stavo leggendo nel gruppo e cosa voleva provare, ma sa che ha già chiuso. Chi? Non lo ricordo, adesso non ce l'ho neanche il telefono a portata di mano. Vanni al lavoro, forse sta dicendo qualcosa, non ricordo nemmeno io, Vincenzo. E ho capito che sta dicendo, l'ho conosciuto stamattina io. Cavalava, io ho capito, sei di Alghero o è di Doppia Sierra? No, è di Sassari. Michele forse. Adesso c'ha il telefono mio figlio e non riesco a guardare la chat chi è. Ho capito. Vabbè. E comunque ti sei trasferito, sei diventato pesano adesso. Prima ero Zirese, adesso sono Itirese, ho fatto famiglia a Itiri, ma sono sceso a Itiri. Hai fatto bene, Dani. Andare. Adesso cosa c'è? Una casa singola o sei in palazzo? No, casa singola è. Così almeno ti non prepara nessuno. Infatti ho messo subito l'antenna e via. Hai comprato? No, non fa comprare. Troppe tasse si pagano già, tutto in affitto. Sbaglierò però. Vediamo con quello che paghi l'affitto poi non è tua, però. Deve pagarti il mutuo. Però almeno così non c'ho tasse, non c'ho niente, che giorni d'oggi è un macello. Conviene vivere in camper adesso. Così non paghi nulla, né luce né nulla. Il mio collega sta facendo così, tanto è scapolo, fa lo stesso lavoro, si prende il camper, se ne esce, se ne va a lavoro in camper e via. Ma io ne seguo diversi su TikTok che hanno il camper, ci hanno messo i pannelli solari, le dura la luce sempre accesa, la notte fanno festini con ragazze, questo e quell'altro, bevono, fanno, si divertono, lui. E niente, lui dice io non pago tasse così. Un altro lo stesso che si è separato, la moglie l'ha lasciata in mutande, ci ha preso il camper e così non paga nulla, capito? Sì, lui ce l'ha, noleggio ce l'ha invece. È suo, se è suo il camper, non è noleggio, è suo. Poi quando lo usa lo parcheggia giù a Porto Torre, sulla Trapasso. Ah sì. Trapasso li vende anche il camper. Stai uscendo a strada. Il microfono è già. Infatti pensavo fosse da mia parte, ma tru. Come mai? Come si sta spellando il cavo. Non dall'attacco ma verso il microfono, la parte alta. Non ce l'hai un cavo. No già, non c'ho più nulla. Avanti. Vabbè Gianni, dai io ti lascio che se andiamo a mangiare, dai. Ci ascoltiamo alle prossime se coincide. Dai, buon appetito, buon divertimento. Avanti, chi è Michele? Buonasera, Amanda, Mike, OpenTube29, nome reale Sergio. Ciao Sergio, da questa parte è la stazione più forte di Sassari. Sì, ti ascolto, dai, Santiago 9-10, va bene, dai, ti ascolto abbastanza bene, dai. Tu come mi ascolti? Rumore sotto fondo. Cosa? Sento le vostre voci con un leggero rumore sotto fondo. Sarà le ventole, sarà il rumore della ventola, dell'alimentatore. Ho provato a comunicare paga, paga, ma no, vabbè, io non c'entro nemmeno nel DPD, non mi piace, io entro qua e basta, io sono CB, non mi interessano le altre frequenze, sono CB e ho una licenza anche d'ascolto, quindi faccio ascolto se voglio farlo, ma adesso non c'ho manco più ricevitore perché ho venduto tutto. Ma hai capito chi sono? Siamo tutta la mia. Kappa gamma, sì. E ho messo la stazione, l'hai vista? Kappa gamma. Che la lì la stazione è in notturna, con le luci accese, con le luci blu. Sono fischiare per non fare scatto. Non ho copiato. No, c'è qualcuno che ha fischiato mentre parlavi, ti ha copiato. Perché qualcuno che ha aspettato la transizione, ma Ma quando c'è gente non è che ti metti a fischiare su quegli altri che parlano. E ho capito, sei lì dove sono le butte. Dove ci sono le butti, sì. Allora, adesso esco in macchina. Mi avete rotto le balle. Ogni volta che parlo, state mettendo la portata. Intanto ho capito chi è. Io sono qua nella parte alta della città, perché ci siamo finiti davvero sorpreso l'altro giorno. Ho capito. Però prima per fare sì, ma sì, tipo, niente di fuori. Neanche nella sinistra, parlavano... Ma quello l'FM ce l'ha? Non ho copiato. L'FM ce l'ha quell'apparato? Ce l'ha, ce l'ha. Passa l'FM. FM? Ora mandare l'FM. Sento sempre un disturbo io qua nel... Come mi ricevi? Chiaro. Ma disturbo secondo me tu lo senti perché non lo sai ancora maneggiare l'apparecchio. Se tu abbassi lo squelch, non tanto, ma appena appena, il disturbo se ne va. Hai trovato la scritta squelch? Tanto, l'ho portato anche. E adesso lo senti il ruolo? Sì, tra comunicazione, mezzo di comunicazione nostra è scritto, continuo a sentirlo. E forse sta cambiando la propagazione. Abbassa qua un po', sino a quando senti a me lo abbassi. Sto sentendo, però ripeto, come si chiama la comunicazione che bisogna riparare le due riprende il rumore sottofondo. Sì, vabbè. Però se stiamo parlando lo senti, però ti disturbo. Tutti lo sentono quello, è il cuore. Devo tenerlo almeno a tu devi regolare adesso che io sto parlando, lo regoli e guarda se da dove mi senti, dove mi senti lo voli. Adesso faccio una cosa, provo ad abbassarlo, salve il senso, lo salvo, vabbè, cavagato. Degli amici di Anghero non ne sentito nessuno. Io sul 15 ho sentito solo propagazione. Quando ho girato stavo dicendo ora, ora, ora, ora. Io ho detto no, qua ci sono mix, ora non ce n'è. Qualcuno deve essere a voglia di accettare tanto c'è da fare, basta, non c'è altro da fare. Sì, vabbè, quindi ce l'ho sempre stato. Come nella vita normale, non c'è le persone tranquille, le persone che ti rompono le palle, che sono lì circa. Guarda, dai, io adesso ti lascio che devo andare a portare giù il cane. Ci sentiamo. Buona serata, mi ha fatto piacere ascoltarti, dai. Ci sentiamo alle prossime. Qua siamo in FM. Cambiare anche su altre bande, oltre a quella europea, però ha deciso di usare le altre bande, perché è un paese in una città europea che è da 80 canali. Ehi, vabbè, non è lecito, ma non penso per fare. Poi c'è gente che da 240 in Canada ci vuole problemi. Un apparato rimanendo questo, ma se questo magari hanno solamente il calzone, ecco le mani, il bambino, non sanno il suo che si può fare, vuol dire che è già detto. Ehi, vabbè, cosa ti stavo dicendo? Quello lì c'ha menù, contromenù, sottomenù, è un casino, no? Diciamo, anche quella più al watch, con questo, con Switch, MFM, la divisione del rumore, qualcos'altro. Ok, va bene, dai, ti saluto, ciao, che questo sta rammentando, dai, ci sentiamo, buona serata e buon tutto. Buona serata. Ciao, ciao. 5